Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Questa sera andiamo a Bari, in Puglia, dove da poche settimane è stato attivato il primo laboratorio in Italia specializzato nello studio della stampa 3D applicata alla riparazione di motori aereo, di parti di aereo. È nato questo laboratorio dalla collaborazione tra Avioareo, azienda che si occupa di progettazione, produzione e manutenzione di motori aeronautici, e il Politecnico di Bari. Questo laboratorio si chiama Apulia Repair Development Center for Additive Repairs, e per parlarcene in linea con noi c'è Giorgio Abrate, responsabile dell'ingegneria di Avioareo. Buonasera Abrate. Buonasera. Dunque Abrate, Avioareo in realtà è già attiva nello stabilimento di Cameri nella produzione di alcuni componenti aeronautici per mezzo della stampa 3D. Credo tra l'altro sia un caso più unico che raro questo nel mondo. A Bari invece lavorerete allo sviluppo di tecniche di riparazione, non di produzione. Partiamo da qui. Oggi qual è l'utilizzo della stampa 3D per quanto riguarda, insomma, attività di riparazione? Sì, diciamo che la riparazione è iniziata nel caso del metallo prima della produzione, perché già nel passato c'erano delle tecnologie di spruzzamento di polveri che servivano a ripristinare i componenti aeronautici. Faccio solo un preambolo dicendo che i componenti aeronautici sono soggetti a temperatura, fatica meccanica, agenti come chimico-fisici, come l'ossidazione, la corrosione, e quindi in seguito all'utilizzo vengono usurati. Quindi già nel passato si usavano delle tecnologie additive e non sottrattive. Ecco, quindi per capirsi, cioè io trovo una crepa, ci metto su questa specie di polvere metallica opportuna e poi un laser o qualche altra roba mi fonde questa polvere, no? È come se mi rimarginasse la ferita. Esatto, sì. E ci sono due tecnologie su cui ci stiamo concentrando a Bari. Una è quella del cold spray, che vuol dire spruzzamento a freddo, in cui il processo utilizza l'energia cinetica per depositare degli strati metallici di materiale, quindi è un materiale d'apporto che viene fondamentalmente sparato a una velocità supersonica contro la parte che vogliamo riparare, e per impatto viene saldato. Si fonde lì direttamente, si salda, sì. Sì. E poi l'altra tecnologia invece è quella che si chiama laser deposition, cioè deposizione tramite laser. In questo caso c'è un flusso di polvere metallica del materiale di apporto che viene spruzzata sulla superficie del componente che dobbiamo riparare e poi viene fusa in modo molto preciso da un laser che è molto selettivo e riesce a somministrare la minima quantità di calore senza necessaria per evitare di fare danni, certo, di peggiorare la situazione invece che migliorarla. Ecco, però lì lavorerete su anche degli approcci appunto innovativi. Ci può fare qualche esempio? Sì, noi queste due tecnologie, sia il cold spray che la laser deposition, sono tecnologie già presenti nel mercato. Noi stiamo lavorando con il Politecnico di Bari per spingere al limite l'automazione di questo processo. Cioè noi innanzitutto partiamo da un modello matematico tridimensionale che è stato usato per progettare il pezzo, per progettare il componente di cui stiamo parlando, e poi introduciamo anche la scansione laser del componente invece usurato da riparare. Confrontiamo, certo, il modello tridimensionale di progetto e la scansione, e attraverso questo sistema automatico riusciamo a definire la strategia di riparazione e anche i parametri di dettaglio per la ricostruzione del pezzo danneggiato. Che poi vedremo magari un po' meglio domani, perché torneremo su questo tema della stampa 3D e dell'aeronautica. È una cosa in realtà difficilissima quando si hanno a che fare con queste polvere metalliche. Calcolare i parametri esatti da utilizzare per un processo di stampa 3D è qualcosa di estremamente complicato. Senta, le chiedo invece perché riparare e non sostituire? Uno verrebbe da dire, insomma, cambiamoli sti pezzi, anche perché oggi si tende, no, a sostituire tutto, anche quando il danno è minimo talvolta. Ecco, in campo aeronautico è molto importante saper riparare, perché un sistema propulsivo di un velivolo, di un'aeromobile, rappresenta circa il 15-20% del valore dell'aeromobile. Però se parliamo di manutenzione, i costi di manutenzione del motore rappresentano circa il 50% dei costi di manutenzione per le compagnie aeree. Quindi questo è un mercato estremamente esteso che sta applicando dei modelli di business nuovi per cui i costruttori di componenti molto spesso vendono l'ora volata più che vendere i ricambi e vendere i prodotti nuovi, e quindi per noi è la riparazione certificata e garantita, perché non dimentichiamo che noi abbiamo un sistema di sicurezza che è molto importante nel campo aeronautico. Ecco, la sostituzione non è assolutamente, diciamo, sostenibile economicamente, è molto preferibile la riparazione. Ed è per questo che sviluppiamo tecnologie innovative. E senta, mi pare che stiate lavorando anche, diciamo così, su dei materiali particolarmente difficili lì a Bari. Sia a Bari che a Cameri. A Cameri produciamo queste pale in un materiale esotico che si chiama alluminio di titanio, e a Bari stiamo cercando di capire come ripararlo con dei processi in atmosfera inerte, perché è un materiale molto complesso sia da lavorare che poi da riparare. Va bene, grazie a Brate, per intanto ci fermiamo qui, continuiamo però domani a parlare di stampa 3D e aeronautica. Grazie a voi. È tutto, appuntamento domani.